It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Martedì 21 dicembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città, che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni sulle nostre reti, che sono Teletricolore, Lepida TV e Radio Città Fujiko. E noi siamo sempre Caterina, che sono io, e Antonella Cortese, che saluto. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Che oggi ha il compito di aprire una casellina dell'avvento, che per noi è l'occasione per parlare tutti i giorni di carcere in modo un po' diverso, perché oggi abbiamo il messaggio di Francesco Tricarico, il cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo, che ha cantato con De Gregori, insomma, anche lui è un amico di Eduradio, come i tanti che ci stanno mandando i loro messaggi, che adesso vi facciamo ascoltare. Augurio a tutti i ristretti dell'Emilia di trascorrere un Natale sereno e un 2022 bellissimo, pieno di gioie. E a te l'augurio di continuare a sognare e immaginare un futuro come lo desideri. Grande abbraccio. E ringraziando tantissimo Francesco Tricarico per questo messaggio, e ne approfittiamo anche tutti i giorni, se sentite alla fine delle interviste con Antonella lanciamo una sua canzone per farvelo conoscere. Passiamo però subito alle notizie di oggi. Siamo a Vicenza, dove Libera Golosità dal carcere apre il negozio monomarca. E lo leggo da vocedeiberici.it, perché si chiama Libera Golosità, il primo negozio monomarca nato a Vicenza, attivo da pochissimo, Antonella, da soltanto dall'8 dicembre, ed è gestito dalla cooperativa M25. In vendita c'è di tutto, tutti i prodotti soprattutto dolciari, panettoni, pandori, biscotti, ma anche crostate, grissini, cracker artigianali, nati dalle mani di un gruppo di 13 detenuti della casa circondariale di Vicenza, guidati dal maestro fornario, dal maestro fornaio Enzo Smiderle. Anche questa, in questo caso la vera sfida sarà la rieducazione attraverso il lavoro, giusto? Eh sì, un po' è quello che cerco di fare tutti i martedì quando vi racconto notizie che parlano di detenzione, di lavoro e di assunzioni, perché ce n'è bisogno, soprattutto nel mondo del carcere, per favorire, per l'appunto, come dicevi tu, la rieducazione e la risocializzazione. E infatti, come spiega Lorenzo Panotto di M25, che è anche il responsabile di questo progetto, lui dice che dal 2019 la cooperativa ha riattivato un forno che era inutilizzato all'interno del carcere, e così hanno deciso di creare opportunità di formazione e di lavoro in un settore che sa certamente generare passioni, come la cucina, e che può dare sbocco di lavoro al termine della detenzione. Quindi durante le festività di Natale in negozio a Vicenza si alterneranno le persone assunte dalla cooperativa M25, ma c'è anche il progetto di coinvolgere detenuti in attività esterna in misura alternativa fuori dal carcere. All'interno di questo negozio sono in vendita però anche prodotti artigianali che provengono da altre carceri e case circondariali d'Italia. Mi riferisco alla birra artigianale prodotta dai detenuti di Cuneo, al caffè di Napoli, al limoncello dalla Sicilia, e si trovano anche le sacche e le borse di stoffa realizzate con il materiale di scarto di Made in Carcere, il marchio prodotto da Luciana delle Donne nel carcere di Lecce. Tutto è vendibile separatamente o combinato in cesti dono, quindi si può decidere se fare anche i regali di Natale, quindi sostenere l'iniziativa. E questo negozio chiaramente va a rafforzare la rete dei prodotti da forno del carcere già disponibili in una ventina di esercizi nella città di Vicenza e dai punti di vendita di Latterie Vicentine ad altre enoteche del Vicentino. Quindi tutti questi dolci che saranno forse anche venduti in una rete e-commerce che al momento non è ancora attiva, però è possibile prendere le ordinazioni e farle spedire in tutta Italia. Quindi c'è anche questo aspetto tecnologico che aiuta a diffondere l'iniziativa. Mi piace raccontarvi queste notizie, ma anche lanciare una canzone prima di passare alle notizie dal mondo con Antonella. Zucchero, così celeste, a tutti. Un altro Rieccovi dopo la pausa musicale, siamo appunto in giro per il mondo con te, Antonella, che da alcune settimane ci stai raccontando come si festeggiano le festività, in questo caso imminenti del Natale, con appunto le tradizioni diverse dei paesi in cui ci troviamo. Questa volta siamo in Inghilterra, che succede? Sì, perché abbiamo viaggiato tanto negli ultimi settimane, siamo andati in Norvegia, in Finlandia, in Svezia, in Giappone, penso siamo andati perfino ai Caraibi. Ma stavolta invece andiamo oltre la Manica a vedere cosa fanno i sudditi della regina Elisabetta in questo periodo. E in Inghilterra infatti il Natale si festeggia, ma per lo più come in Italia, non ci sono grandissime differenze. addobbi natalizi, albero e presepe, oltre ai doni per i bambini. E una caratteristica però che la differenza è quella di scambiare piccoli ramoscelli di agrifoglio e vischio fra parenti e amici, come buon auspicio, buon augurio. Questa tradizione, pensa, arriva dal lontano 596 a.C., quando le comunità pagane, durante i festeggiamenti del solstizio d'inverno, si scambiavano appunto agrifoglio, vischio e piante legate un po' al culto dell'immortalità. E fra le altre tradizioni del Natale inglese vi è quella di cogliere, proprio pick up, il proprio albero di Natale, ovviamente rigorosamente vero, nei vivai, cioè nelle Christmas Tree Farm. E ogni famiglia sceglie il proprio albero in un grande parco e lo porta a casa per addobbarlo. Ho una curiosità, tu che dai sempre notizie ambientaliste, che fine fanno dopo il periodo natalizio questi meravigliosi alberi di Natale? Non me la fare questa domanda, ti prego. No, te l'ho fatta ormai, ormai devi rispondere. Vabbè, una volta finite le festività, i pini molto spesso vengono buttati via, o in alcuni casi più fortunati, quando c'è gente un po' più, diciamo, illuminata, vengono ripiantati. Però passiamo ad altro argomento, pensiamo ai bambini e pensa che la settimana prima del 25 dicembre i ragazzi e i bambini cantano le Christmas Carols, passeggiando per le strade, suonando alle porte con i bambini che donano i ramoscelli delle piante in cambio delle caramelle, insomma questa è una bella usanza. E infine, sempre i bambini la notte di Natale si recano a messa e prima di andare a dormire lasciano il bicchiere di latte per Babbo Natale, Christmas Father appunto. E la carota per Rudolf, la renna. Anche noi lasciamo qualcosa a Babbo Natale, no? Eh sì, è vero. I biscotti, il latte, anche noi lo facciamo. Però noi abbiamo anche questa tradizione in Italia di fare cenoni che durano dal 25 fino alla fine dell'anno, fino ad arrivare al 6 di gennaio. E quindi ti chiedo che tradizioni culinarie esistono in Inghilterra. Allora, il pranzo tipico natalizio inglese, quindi parliamo del 25, è composto da tacchino ripieno con salsa di mirtilli, purea di patate e il Christmas pudding come dolce, al cui interno vi è una moneta di cioccolato e chi la trova sarà fortunato durante tutto l'anno. E un'altra caratteristica tipica dei festeggiamenti inglesi è quella del 26 dicembre, il famoso Boxing Day. Il giorno in cui si celebra in realtà Santo Stefano, che è un giorno festivo in Inghilterra indipendentemente da quando cade, che viene dedicato fondamentalmente allo shopping. E a Londra è una grande sfida perché a un certo punto tutti si recano nei negozi, nelle botteghe, insomma, dovunque, in modo frenetico per acquistare qualcosa da regalare a qualcuno, appunto nelle box, nelle scatole. E adesso però lasciamo l'Inghilterra e torniamo al nostro Tricarico, alla sua canzone Vita Tranquilla. Ma non andate via perché dopo Vita Tranquilla ci sarà l'intervista di Caterina a suora Elisabetta Stocchi del Centro Asteria. Quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto? Io, una vita tranquilla, perché da quando sono nato sono spericolato. Io voglio una vita serena, perché da quando sono nato che pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenne una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa. qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre. Bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Per questa settimana l'ospite è Elisabetta Stocchi, direttrice del Centro Asteria di Milano, a cui do il buongiorno. Ciao Elisabetta. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro sono contenta di averti qui in questa che è la settimana di Natale, perché è proprio l'occasione di averti come ospite per poterti conoscere meglio. Io so che tu sei appunto la direttrice del Centro Asteria di Milano, che è un polo culturale e sportivo nella periferia cittadina e svolge un'attività formativa e sociale da quasi 30 anni praticamente, siete attivi da tantissimo tempo, ma ti chiedo un po' di raccontarci come nasceva 32 anni fa. Nasce da un'intuizione delle suore del mio istituto che dal dopoguerra fondamentalmente si sono insediate qui nella periferia di Milano. Noi siamo nella zona sud, il quartiere Stadera, un quartiere con una forte immigrazione. Addirittura appunto quando arrivammo tutto il viale al quale ci affacciamo era un viale da baraccopoli. Di sfollati della guerra e anche di nuova immigrazione dal sud, venivano alla ricerca di un lavoro nella Milano che appunto fin da allora era in rilancio per tutta l'Italia. E loro si sono inserite dentro questa realtà con la scuola popolare, erano tantissime persone adulte ma analfabete, per cui il supporto sia per appunto l'alfabetizzazione sia importantissimo anche per inserirsi nel mondo del lavoro, e poi successivamente, secondo anche un po' il nostro carisma, hanno aperto una scuola un professionale. Il nostro carisma è un carisma delle suore di Santa Dorotea, e la nostra fondatrice si chiama Madre Annunciata Cocchetti, è il nostro carisma che chiaramente si è trasformato secondo la società nell'oggi. E infatti da quel 1952, quando arrivammo a Milano, fino al 1990 la scuola appunto ha subito le sue trasformazioni, aprendo anche la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, le medie e il nostro segretariato d'azienda. Qui la nostra è una scuola che va bene, è una scelta. E allora è stato, qual è il modo altro per stare accanto ai giovani? Ed è venuto fuori appunto l'idea del tempo libero dei giovani. E il tempo libero dei giovani dove vanno? Vanno a fare attività sportiva o attività culturale. Allora, con una particolare attenzione per loro è nato questo centro che ha una polisportiva, oggi è una polisportiva con prima della pandemia avevamo 600 iscritti tra varie sezioni, basket, pallavolo, arti marziali e danza. Tra l'altro le arti marziali le ho introdotte io perché le suore non volevano, ma inserendomi appunto come giovane suora e venendo dal mondo dello sport, avendo appunto fatto judo per tantissimi anni contro la disposizione della mia comunità, io ho detto no, sono la referente dello sportivo, faccio partire questo corso perché le arti marziali hanno dei grandi valori proprio di formazione dei bambini, dei ragazzi, della gioventù, proprio dando un senso profondo, una capacità di concentrazione, di rispetto, il maestro, l'altro, e per loro era arti marziali uguale violenza. Praticamente dopo un anno hanno visto la differenza che c'era tra i bambini che avevano praticato judo e i bambini che avevano praticato basket, che ha altri valori, cioè, però c'è più cameratismo, i ragazzini del basket facevano da cacciaroni, bambini delle arti marziali, il saluto, le mani più ordinate, tutti quanti attenti. E allora lì si è rivelato il grande potenziale che c'è anche attraverso le arti marziali fatte in un certo modo. E così comunque abbiamo iniziato con questa polisportiva e un teatro da 400 posti, per cui un teatro tra l'altro molto bello, la struttura è stata costruita dall'architetto, cioè i lavori sono stati seguiti dall'architetto Giulio Bacchetti, che ha fatto veramente un piccolo gioiello, è un teatro d'anfiteatro per cui crea una prossimità e una, diciamo, anche un'intimità molto forte, per cui tu subito ti senti vicino al relatore, all'attore, all'attrice. Questo teatro che crea questa prossimità e questa intimità molto, molto bella, molto, molto forte, che è un valore enorme, che abbiamo tra l'altro anche un'acustica eccezionale. I primi anni hanno lavorato in modo sperimentale, hanno cercato di mettere a fuoco quello che poteva essere la valorizzazione massima della struttura. Per cui sul culturale il cinema, la settima arte, proprio perché è un linguaggio molto potente, molto forte, che arriva ai giovani, ma trasversalmente a chiunque, e permette anche il confronto, per cui un cineforum molto partecipato soprattutto i primi anni. E la musica è stata messa al centro, e come altro linguaggio universale, e poi c'era una sezione legata alla montagna, per cui la montagna nel suo aspetto appunto di sfida dell'uomo nei confronti della natura, ma anche di incontro col trascendente, con quel silenzio, con quegli spazi infiniti che ti aprono al senso più profondo della vita. Bene, questi primi 8 anni sono state, come ho detto, di sperimentazione, poi l'istituto ha fatto una scelta forte, perché la fatica di mantenere una struttura così impegnativa, così pesante, economicamente parlando, lasciava delle preoccupazioni grosse nel nostro istituto, che è un istituto piccolo, non siamo tante suore, siamo in tutto il mondo, in Africa, in America Latina, in Italia, ma siamo pochissime. E invece c'è stata ancora una volta un affidarsi alla provvidenza, un credere che veramente il Signore è davanti a noi e ci accompagna, ci precede se noi ci affidiamo a Lui. E l'istituto ha fatto una scelta veramente controcorrente, che è stata quella di... Aveva già mandato me i primi 3 anni, dove avevo appunto riattivato in un modo più efficace, efficiente, più coinvolgente lo sportivo. E vedendo che aveva preso un volano interessante, ha mandato qui a Milano un'altra suora, Suor Bianca Gaudiano, una visionaria. La suora era la vicaria, per cui una testa, una bella intelligenza, una profondissima spiritualità, una suora che ti spiazzava perché, oltre che essere poetessa, scrittrice, leggeva la mano, ma non la mano che ti diceva quanti figli avevi, ma ti leggeva la mano leggendoti nel profondo della tua anima. Ho visto più di una persona piangere dopo il primo incontro, perché quando le prendeva la mano e gli diceva alcune cose che erano dentro di lui o dentro di lei, così intime e profonde, che rivelavano a loro stessi ciò che erano, ciò che sapevano, ma che quasi doveva anche venire fuori ancora, lacrime veramente copiose. Beh, questa suora visionaria mi ha coinvolto, io sono un po' più pragmatica, sono un'operativa, e questo incontro con poi veramente il Signore che ha benedetto l'opera, abbiamo cominciato a mettere a fuoco di più chi? I giovani. Per cui probabilmente siamo ritornati al centro del cuore, al centro della nostra carisma, che appunto sono i giovani, e da lì è nato un progetto nuovo, un progetto che poi è diventato il cuore pulsante della nostra programmazione, che pur mantenendo per il culturale, per il sociale territoriale un suo impegno, ha poi un progetto dedicato alle scuole superiori e alle scuole medie, molto interessante. Ti chiedo, intanto grazie per questa descrizione bella, proprio anche ricca del Centro Asteria. Ovviamente fate così tante cose che avrete molto personale, no? Anche volontario. Quanti siete? Ok, no, non siamo tantissimi, siamo tipo 6 dipendenti, abbiamo 5 dipendenti nel culturale e molto bravi però, devo dire uno staff eccellente, sono giovani, e a parte Susanna con la quale abbiamo vissuto il decollo di questo aereo molto impegnativo, ma poi sono subentrati appunto Giovanni, Denise, Elisa, Lucilla, che lavorano stabilmente per il settore culturale, tra l'amministrativo e le comunicazioni, e tutti i social, insomma, i responsabili di sala. E poi abbiamo sempre nello sportivo invece Gabriella, Roberta e Valentina, che curano invece anche loro l'altra sezione che c'è la più sportiva, e Stefano Bisanzon, che è il nostro direttore sportivo. Questo è lo staff stabile, oltre altri due, Gian e Mario, che sono invece per le pulizie. E poi abbiamo una serie di volontari che orbitano intorno alla steria e che sono fondamentali e importantissimi. E abbiamo tanti livelli diversi, da quelli che ci aiutano al cambio dei bambini per portarli su, portarli giù, per il fuori ora, a quelli che invece ci aiutano in quanto testimonial anche del Centro Asteria, ambassador del Centro Asteria, invece proprio nella progettualità, nel pensare come e che cosa proporre ogni anno, perché in quanto centro culturale non è tanto fare una stagione con una serie di titoli, ma perché questi titoli, che cosa vogliamo da questi eventi, e che cosa vogliamo comunicare. E allora il pensiero è sempre frutto di questo, diciamo, dato scientifico, amici, li chiamiamo gli amici del Centro Asteria, il gruppo dei saggi che ci fanno prossimi e che ci danno dalle loro prospettive di competenze, di professionalità diverse. Qui stiamo parlando di amici volontari o esperti che ci aiutano nel mondo della poesia, della letteratura, della scienza, dell'arte. E li abbiamo del mondo del cinema, attori, registi, ed insieme ci confrontiamo proprio per capire quali sono le domande, le istanze dell'oggi. Ecco, questi qui sono dei volontari preziosi che si alternano al Centro Asteria, per il quale il Centro Asteria non sarebbe, perché il Centro Asteria è un grande contenitore bellissimo, come ho detto prima, artisticamente insomma, molto molto affascinante, ma è un contenitore. Asteria è fatto di persone, e da questa relazione, questo desiderio, questa unità di intenti, questo sentirsi famiglia nel rispetto anche delle diversità, che è una delle caratteristiche dell'Asteria, è proprio quella del cercare in apertura un dialogo con tutti, a 360 gradi, per cercare insieme ciò che è vero, bene e bello. Grazie Elisabetta, siamo giunti ai saluti di fine puntata, tra pochissimo il nostro tempo è quasi finito, ti ringrazio, ci vediamo anche domani e alla prossima, grazie. E rieccovi, bentornati, seguite le nostre rubriche nella mezz'ora successiva, questa volta abbiamo le lettere dal carcere, in cui la professoressa Chiara Scivoletto, che insegna sociologia della devianza, sociologia giuridica del mutamento sociale e criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, commenterà alcune lettere scritte proprio dalle persone detenute. Se volete scrivere anche voi, redazione liberidentro@gmail.com. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Enea Flacco, da Diana Botta, e noi ci rivediamo domani. Grazie. Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. It's glistening once again.